Ecco, Lorenzo. Oh, Lorenzo, tu Ciao sei, Gianluca, la buongiorno. categoria che ho lungamente aspettato che chiamasse. Il recuperante. Oggi hai una La durissima responsabilità. concorrenza da parte dei Rom che vanno in giro con i carrellini della spesa a votare i cassonetti. Però ancora qualcosa trovi. No, io ho trovato un quadro di Daniele Migliorini sulla spazzatura, è un Buttato nel pittore cassonetto. buttato nel cassonetto, ma non è la cosa di maggior valore che abbia trovato, ma il problema non è solo il valore È la economico delle cose, scoperta. perché no, ho trovato una volta, perché i miei amici mi chiamano quando vedono le cose, una volta in Via Romana c'erano 3 metri di spazzatura, cassonetti pieni di libri d'arte, ho trovato un proiettore Super 8, cioè una tristezza, infatti ho le lettere d'amore di questo signore che ha vissuto sempre con questa signora, poi non so se è morto, Di ho solito sono cercato. gli eredi che vanno a cercare i dobloni d'oro, non trovano quelli e buttano via tutto il No, resto. è stato bruttissimo. Ma tu hai toccato anche un punto fondamentale, la distruzione rituale delle cose, perché sono un feticista degli oggetti. Ma, e li distruggo anche, ma distruggo quelli che mi ricordano la mia infanzia e tengo soltanto quelli che posso tenere in uno stato di perfezione eterna, quindi che possono essere o i miei strumenti, la collezione di Beh, io calcolatrici la mia rana meccaniche. mummificata di quando avevo 20 anni ancora me la tengo. Ecco, hai capito. Le cose che riesco a tenere ferme, congelate. Allora mi fanno pensare, cioè io dico io non ho età perché quelle cose che mi circondano sono sempre nuove. Le cose che invece invecchiano via via, anch'io faccio la Senti, distruzione ma rituale. spiegami, qual è l'orario in cui vai a razzolare nei No, cassonetti? è girello la Ah, di notte, notte, prima che poi li ho. portino via. Cioè no, no, sfortunatamente non lo posso fare di mestiere, però Lo so, è una disgrazia. siamo un giro di amici che ci teniamo in. Ma non avete un minimo di, adesso, di ritegno quando la gente passa, voi lì con le mani dentro la No, spazzatura? ormai c'è lo spirito di emulazione di Brad Pitt su Fight Club che entra nel cassonetto, Ah. quindi ormai è cool fare anche quello.